La regina delle isole fiorite. Molto tempo fa vi era una regina che regnava le isole fiorite. Suo marito morì pochi anni dopo il loro matrimonio. Il suo dolore non guarì mai completamente. Quindi si dedicò interamente all'educazione delle due principesse, le sue uniche figlie. Ormai erano cresciute e la regina iniziò a temere per la grande bellezza di Lily, la figlia maggiore. Tale bellezza avrebbe fatto ingelosire la regina di tutte le isole. Perché la regina di tutte le isole era orgogliosa di essere la donna più bella del mondo e insisteva affinché tutti i rivali si inchinassero davanti al suo fascino. Per meglio gratificare la sua vanità, aveva esortato il re, suo marito, a fare guerra a tutte le isole circostanti. E lo fece, poiché il suo unico desiderio era di compiacere la sua regina, ad una sola condizione. Ogni ragazza di sangue reale presente nelle terre conquistate, appena compiuti 15 anni, si sarebbe dovuta presentare a corte per rendere omaggio alla bellezza della sua regina. La regina di Isola Fiorita era determinata a presentare sua figlia alla regina orgogliosa il giorno del suo 15° compleanno. La grande bellezza della giovane principessa era diventata nota e le voci erano giunte sino alla regina, che attendeva con ansia la sua visita. Oh, scusa. Sei pronta, mia principessa? Sì, mamma. L'ansia della regina si trasformò presto in gelosia. Perché quando l'incontro ebbe finalmente luogo, fu impossibile non rimanere accecati dalla sua incredibile bellezza. E lei fu costretta ad ammettere di non aver mai visto nessuno così squisitamente adorabile. Ma nulla avrebbe potuto farle credere che chiunque potesse eclissarla. Temo di aver preso una decisione. Dovremmo continuare questo in un altro momento. La schietta ammirazione dell'intera corte la fece arrabbiare così tanto che finse di sentirsi poco bene e si ritirò nella sua stanza. Mandò a dire alla regina delle isole fiorite che le dispiaceva di essersi sentita troppo male per incontrarla. Affidò ad una delle donne di corte il compito di dire di tornare nel suo stato con la principessa. Ma questa era una vecchia amica della regina delle isole fiorite, quindi la regina non ci mise molto a capire le cose. Ben consapevole dei poteri magici della furibonda regina, avvertì la figlia dell'imminente minaccia e le disse di non lasciare per nessun motivo il castello nei 6 mesi a venire. I 6 mesi erano quasi finiti. L'ultimo giorno, una splendida festa doveva svolgersi in un prato vicino al palazzo. La principessa implorò la madre di lasciarla andare fino al prato e la regina, pensando che tutti i rischi fossero finiti, promise che l'avrebbe portata. Non andare troppo lontana, Lily. Non lo farò, madre. La regina e tutti a corte furono felici di vedere la loro amata principessa libera. Stai attenta. Sei un cane adorabile. Da dove vieni? Dove siamo? Un minuto fa ero con mia madre e mia sorella, ora sono qui. Fammi strada, cagnolino. Oh, ma guarda cosa hai trovato per me! La principessa corse in questo posto adorabile. Si sedette sull'erba per godersi il momento, che non durò a lungo, dato che cominciò a pensare alla sfortuna e scoppiò a piangere. Questa frutta e questa acqua fresca mi impediranno di morire. Ma cosa succederà se una bestia selvaggia cercherà di mangiarmi? La principessa trascorse la giornata vicino alla fontana cercando di distrarsi giocando con il cagnolino. Con l'avvicinarsi della notte si chiese cosa avrebbe dovuto fare. Cosa c'è? Va bene. stanca di tutto ciò che aveva passato, si addormentò presto. Così mangiava frutta e beveva acqua, camminava tra i fiori, giocava con il cagnolino e di notte tornava a dormire nella grotta. Passarono diversi mesi in questo modo e, una volta sconfitte le sue paure, si rassegnò al suo destino. Un giorno notò che il suo compagno sembrava triste e non la coccolò come al solito. «Stai bene, cucciolo?» Temendo che potesse essere malato, lo portò in un posto dove lo aveva visto mangiare alcune erbe particolari, sperando che potessero fargli bene, ma non le toccò neanche. Quando si svegliò, il suo primo pensiero fu per il suo piccolo cagnolino. Corse fuori dalla grotta per cercarlo. «Ehi là!» Il vecchio scomparve così in fretta che riuscì appena a vederlo. Si chiese se il suo cagnolino si fosse allontanato o se il vecchio l'avesse rubato. Non è sopravvissuta allo shock di averti persa. Oh no! La principessa più giovane aveva indossato la corona, ma ora la diede alla sorella, a cui apparteneva di diritto. Dovremmo condividere tutto il potere. Come prima cosa, decise di onorare il ricordo della sua cara mamma. Ancora molto addolorata per la perdita del suo cagnolino, lo fece cercare in ogni paese. Ma non venne mai trovato. Ne fu così addolorata che offrì metà del suo regno a chiunque lo avesse trovato. Gli uomini partirono in tutte le direzioni alla ricerca del cane, ma tornarono tutti a mani vuote. In preda alla disperazione, la regina annunciò che la vita era insopportabile senza il suo cagnolino e che avrebbe dato la sua mano in matrimonio all'uomo che l'avrebbe trovato. La prospettiva di un tale premio trasformò rapidamente la corte in un deserto. Mentre la ricerca continuava in tutto il mondo, un giorno la regina fu informata che un uomo dall'aspetto molto malato desiderava parlare con lei. «Cosa hai da dire?» «Sono pronto a dare alla regina il suo cagnolino. Sei pronta a mantenere la sua parola sul matrimonio?» «La regina non ha il diritto di sposarsi senza il consenso della nazione e il consiglio deve essere convocato per un'occasione così importante. Ti verrà dato un appartamento nel mio castello mentre un consiglio si riunirà per discutere ciò che verrà fatto.» «Grazie, mia regina!» Il giorno seguente il consiglio si riunì e su consiglio della principessa fu deciso di offrire all'uomo una grossa somma di denaro per il cane e, se l'avesse rifiutata, di bandirlo dal regno. Ma l'uomo rifiutò l'offerta e lasciò la sala. Daisy informò la regina di ciò che era successo e la regina, libera di decidere per se stessa, decise di abbandonare il suo trono e vagare per il mondo finché non avesse trovato il suo cagnolino. «Vagare per il mondo per un cane? Puoi avere qualsiasi cane e qualsiasi uomo! Ho preso la mia decisione, sorella!» Mentre discutevano sull'argomento, un ciambellano apparve per informarla che la baia era piena di navi. «Guarda quante navi! Devono essere di una nazione amica! Come puoi dirlo? Ogni nave è addobbata con bandiera, nastri, stendardi e la nave principale ha una grande bandiera bianca!» La regina mandò un messaggero speciale al porto e presto apprese che la flotta apparteneva al principe delle isole Smeraldo, che la implorava con rispetto di farlo attraccare e scendere a terra. La regina lo pregò di sedersi e per circa un'ora lo trattenne in conversazione. «Mia regina, ho delle cose molto strane da dirti. alle quali solo tu potrai credere. Molto bene, continua. Sono un vicino della regina di tutte le isole. Un piccolo pezzo di terra che collega parte dei miei stati con i suoi. Un giorno, mentre stavo cacciando un cervo, ho avuto la sfortuna di incontrarla e, non riconoscendola, non mi sono fermato a salutarla con la giusta cerimonia. Tu, signora, sai meglio di chiunque altro quanto sia venuto lì. Conosci meglio di chiunque la sua vendetta. Ho imparato tutto a mie spese. Mi trovai presto in una terra lontana, trasformato in un cagnolino. Fu allora che ebbi l'onore di incontrare Sua Maestà. Ma questo non bastò a soddisfare la regina. Così lei mi trasformò di nuovo in un orribile vecchio. Avevo tanta paura di disturbare la tua vista che mi sono nascosto nel profondo del bosco. Ho avuto la fortuna di incontrare una fata benevola che mi ha liberato dall'incantesimo della regina orgogliosa. Mi ha detto delle tue avventure e dove trovarti. La vanità e la gelosia della regina delle isole hanno causato troppo dolore. Così le fate, per punizione, gli hanno tolto tutto il suo potere. Ora sono qui ad offrirti un cuore che è stato interamente tuo, mia signora, sin dal primo nostro incontro nel deserto. Giorni dopo, messaggeri vennero inviati in tutto il regno per annunciare il matrimonio della regina Lily con il giovane principe. Vissero così felici e contenti per molti anni e governarono bene il loro popolo.